vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 6 di Ratto di Campagna Topolino di Città, il programma di Radio Big World che si rivolge a tutti i popolani provinciali come me, quelli che alla mattina si alzano e l'unica preoccupazione che hanno è come annaffiare l'orto, mentre per orientarsi, insomma, perché facciamo quello che facciamo? Lo facciamo perché noi campagnoli abbiamo necessità di imparare come si vive in città, come si sta tra i cittadini, tra quelli che vanno vestiti di firma, che guidano le auto sportive, tra quelli che parcheggiano in doppia fila, come se non ci fosse un domani, e per aiutarci a guadagnare un po' di buone maniere, ecco che viene in nostro soccorso una cittadina, colei che mentre noi andavamo in zattera, lei se ne andava in crociera ai tropici, la zattera per attraversare l'Arno perché non c'erano i ponti, e la nostra cittadina fiorentina è Laura! Ciao Giorgio, ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati. Laura, oggi sarei interessato a discutere un tema un po' pruriginoso, e cioè quello del pettegolezzo. Pettegolezzo che in provincia, nei paesi, nei paesini, è forse l'attività principale di moltissimi, un tempo, oggi un po' meno, ma comunque sempre molti, e in città... Anche oggi, mi piace. Laura, in città il pettegolezzo c'è, ossia nella grande realtà dove vivono tante persone, dove ogni giorno arriva gente che è interessata a fare l'esperienza di vivere a Firenze, così come ce n'è tanta altra che se ne va, insomma, in questo via vai di gente, anche a Firenze ci sono i pettegolezzi? Eh sì, dai, un po' ci sono, in misura diversa, però ci sono. Ci sono i pettegolezzi di quartiere che, insomma, hanno una dimensione più ristretta, quindi sono più simili alla dimensione paesana. Il pettegolezzo del condominio, del quartiere, della via, della strada, dell'isolato, un po', insomma, rispecchia quello che c'è in paese, però è più facile, se te ne vuoi tirar fuori, ignorarlo, ecco, forse sì. Si ignora il pettegolezzo, ma si scampa al pettegolezzo, ossia in città c'è modo di essere realmente anonimi? Ma se stai attento, sì, io direi di sì, ma non si sa mai, l'insidia si nasconde anche dove meno te l'aspetti, perché può succedere che sei convinto di essere anonimo e poi di punto in bianco ti trovi di fronte a una comare che sa tutto di te, come fa? Non lo so, però succede. Per esempio, se un rapinatore volesse nascondere il suo ostaggio in paese o in città, io gli consiglierei di farlo in città, però non è detto che riesca nel suo intento, però insomma le possibilità di essere trovato sono meno. Dici quindi che per chi ha qualcosa da nascondere, la città, con un po' di attenzione e con un po' di furbizia, permette l'anonimato, permette la clandestinità, chiamiamola come negli anni 70. Sì, dai, diciamo di sì. Oddio, Firenze non è particolarmente grande, quindi poi tutti i nodi vengono al pettine. Infatti, se due o tre gruppi di amici, magari che non si conoscono, però passano una serata casualmente insieme e si mettono a parlare di persone che conosciute da quello e da quell'altro, trovano sempre qualcosa su cui spettegolare. Ma poi alla fine spettegolare, dai, richiama a qualcosa di negativo, che non necessariamente il parlare di qualcuno poi porta con sé. Io posso parlare anche bene di quello e di quell'altro, però ecco, le conoscenze comuni si trovano anche a Firenze. Infatti succede spesso che una conversazione finisca, certo Firenze è piccina, Quindi anche i fiorentini hanno l'impressione che il mondo sia piccolo e che la loro città sia piccola, nonostante sì, domini sai... l'universo, insomma, nell'idea del fiorentino. Come no, come no. E c'è soddisfazione quando due persone che si sono appena conosciute parlano e riescono a trovare un punto comune. E quasi sempre lo trovano. Ah, allora, se conosci quello, conosci anche l'altro. E allora... La soddisfazione nel trovare un amico comune c'è, guarda, ti dico. Il famoso antropologo Jared Diamond, nel libro Il mondo fino a ieri, in cui compara il nostro mondo moderno con il mondo delle tribù che ancora vivono allo stato di natura in Papua Nuova Guinea, e lui racconta che la prima cosa che fanno due persone che si incontrano nella foresta e non si conoscono è quella di sfoggiare la lista dei loro antenati, e se hanno un antenato comune vanno in pace, se non hanno antenati comuni si scontrano e qualcuno dei due rimane vedi, sul campo. Vedi e c'è un guardiano della memoria in questa Firenze grande ma anche piccola, ossia la vicina che sa ogni orario dei suoi dirimpettai, che sa che quello è sposato con quell'altra, che però fa quello, che lavora lì e torna tardi e il figlio c'ha problemi. Esiste? Sì, esiste anche qui. A volte è un commerciante perché... Sai, o è la vecchina che non lavora e quindi passa tutta la giornata affacciata alla finestra, o è un commerciante che passa nella sua bottega tutto il giorno e anche lui si affaccia alla finestra, no? Sì, fra commercianti un po' c'è questo spirito, perché poi per forza ognuno è al suo negozio e ci passa tutte le giornate, allora... si crea questa situazione. Quindi è fondamentale avere una finestra per guardare il mondo, e probabilmente è strategico l'avere una finestra che si affaccia proprio nel punto in cui si permette di controllare, diciamo, il vicinato. Sì, poi una cosa molto, molto gradevole è parlare anche dei VIP, perché a Firenze spesso passano i VIP, no? Nella mia zona abita Piero Pelù, allora già insomma il fatto di dire ho visto Piero Pelù, ecco, ti eleva il pettegolezzo a qualcosa di più nobile. Dal pettegolezzo al gossip, all'inglese. Sì, esatto, cosa ha fatto Piero Pelù è più interessante di sapere cosa ha fatto il fornaio, dai. E essendoci i commercianti che... conoscono, vedono passare, sanno chi è chi, e essendoci le signore o i signori anziani, ma anche meno anziani, che stanno alla finestra a interessarsi, diciamo, di quello che gli succede intorno, esistono gruppi di comari, come esistevano un tempo, con la sedia fuori, che stanno lì a dire, ma lo sai, ho visto quella, e di recente quello è andato in quel posto. Esistono anche a Firenze? Se quelle forse sono più tipiche dei paesi, magari in qualche isolato un po' meno trafficato allora ci possono essere, però insomma in minima parte stanno scomparendo, ahimè, perché a me piaceva il capannello di comari che ti osserva. Ma se vai dal commerciante che sa tutto, capita di fare un pettegolezzo, se ti conosce, se sei del quartiere, e di che parlate? Parlate di gente del quartiere? Sì, fondamentalmente sì. Gli argomenti più interessanti sono un po' universali. Allora, quello, chi ha sposato, quella con chi si è fidanzata, lui con chi le ha fatto le corna, lei come ha reagito, lei con chi lo ha tradito a sua volta, che lavoro fa, dove ha comprato casa, com'è questa casa, quanti figli hanno e se sono belli o brutti. In paese, secondo me, c'è un argomento in più, ovvero lui di chi è figlio. Ma sì, è vero. Ci si conosce di più, e anche per capire chi è una persona, quando gli dici chi era il suo babbo, generalmente non vuoi sapere il nome del padre e della madre, ma il lavoro, il mestiere dei genitori. Ah, come no, il figlio di quello che lavorava alle ferrovie. Ah, ho capito. Io per esempio quando andavo in paese, il paese da dove vengono i miei genitori, è per questo che sono ferrata sull'argomento, carissimo, perché io sono fiorentina ma ho origini paesane, e al paese io ero la figlia di mio babbo, perché mio babbo era un cantante abbastanza famoso nella sua zona, e quindi insomma mi piaceva anche essere etichettata così, no? Eri la figlia del cantante, la figlia come cantante. La figlia di Sting che abita a Figline Valdarno. più o meno. Mi piaceva appunto, però allo stesso tempo quando invece ho iniziato a frequentare il paese da un po' più grande non mi piaceva più molto, perché tornavo dalla nonna che sapeva che giro del paese avevo fatto, che cosa avevo comprato, sapeva tutto. Sapeva tutto ciò che avevo fatto, per fortuna non facevo niente di male, però insomma mi sentivo quasi osservata. Non c'erano ancora i social, pensa se, non c'era internet, ma mi sentivo l'occhio del grande fratello addosso. Ragion per cui, Laura, come a Firenze si sparge una voce, in paese più o meno è un tam-tam, più o meno tutti conoscono tutti, e oh, sai che è successo, e parte la voce. Un mio ricordo di bambino a Figline Valdarno, il giorno del perdono o i giorni del perdono, che è più o meno come la festa di San Giovanni a Firenze, e praticamente a 1,5 chilometri dalla piazza principale una macchina aveva inchiodato mentre un signore attraversava sulle strisce. Nel giro di un'ora in piazza si sapeva che un bambino e un nonno erano stati uccisi da un'auto pirata. Ah sì, questa capacità di gonfiare su tutti gli eventi, infatti poi dopo quando uno la capisce inizia a prendere tutto con le molle e a fare la tara di un buon 80% di quello che viene detto in paese. E ma questo avviene anche in città, avviene anche a Firenze? Meno se l'ho detto, perché insomma la notizia poi insomma si limita a raggiungere chi è realmente interessato. Magari se tu ti interessi e ti informi, allora sì, ti arriva la notizia, però è difficile che ti vengano a raccontare le vicende di qualcuno che neppure conosci. D'accordo, qui invece è importante sapere anche di chi non si conosce, decisamente sì. E le breaking news ci sono, ossia per due casi particolari, almeno in provincia, almeno qui da noi, il tam-tam parte più in fretta se si parla sostanzialmente di due argomenti, cioè se si aggiungono elementi nuovi, che sono corna e guai giudiziari. Ah sai, a quello gli è entrato la finanza in casa, gli ha trovato, oppure ah sai, la moglie o il marito di lui o di lei che faceva o con chi se la faceva. Anche a Firenze ci sono le breaking news di questa natura? Te l'ho detto, le corna sì, ma dai, quello è un argomento piccante che insomma è anche oggetto di telenovelas di ogni tipo, quindi penso sia universale. Guai giudiziari? Ma forse a Firenze nessuno ha guai giudiziari, non lo so. O forse ce li avete, è comune ma... averceli. E forse non se ne parla, chissà. Ma voi poi in paese sapete in anteprima chi è morto, è questo che a me veramente mi ha sempre colpito. Quando andavo in paese e vedevo questi cartelli con i nomi dei morti, io ci rimanevo così male, ero piccola, ma veramente ci rimanevo troppo male, perché pensavo a tutte queste persone che non c'erano più. E poi vedere, per esempio, 5 cartelli con 5 nomi di persone, ahimè, defunte, e 4 signore davanti al bar, faceva riflettere. Dicevo, ma no, 5 morti e 4 vivi in questa piazza, com'è? Come si poteva andare avanti? I cartelli dei morti effettivamente sono piazzati in posti strategici del paese, almeno per quello che riguarda Montevarchi, ma probabilmente anche gli altri comuni, in modo tale che anche i passanti siano costretti a fermarsi e a leggerli. Esatto, così il passante che è ignorante, che non conosceva il defunto, può chiedere ad un altro, ma chi era? Ah, il babbo di, il figlio di, ah, quello che ha, porino, ah, giovane! Oppure col fatto che c'è l'età sotto, no? Oddio, era giovane, no? Anche se magari sono 85 anni, però si dice sempre, purino, non era tanto anziano. Però ecco, voi non potete dare l'illusione che muoia meno gente, no? Perché io, non vedendo cartelli dei morti a Firenze, vivo nell'illusione che siamo tutti vivi e vegeti, che stiamo tutti bene. Invece proprio avere sempre sotto gli occhi i nomi di chi non c'è più, ma no, mi fa un po' tristezza. Che poi non è tipico solo del paese, perché io ho visto altre città, per esempio mi è venuto in mente Genova, che quando andai a Genova era pieno di cartelli di morti. E in città ci sono i cartelli dei morti, ma non a Firenze, e questo è sempre stato un punto interrogativo per me, chissà come mai, ma a me piace che non ci siano, ti ripeto, perché mi fa più allegria non pensare ai defunti, pensare ai vivi. Bizzarrie fiorentine! Ma davvero, guarda, e poi niente, se io voglio pensare che uno è morto giovane, se te mi metti sotto l'età, mi rovini la mia illusione che questo sia magari morto, che ne so, nel pieno degli anni, e invece mi dici che è morto a 100 anni. Non ci si può nascondere da voi, dai, è tutta la luce del sole. Come di un cinese non si è mai sentito che sia morto, che sia stato fatto un funerale, così a Firenze non si usa mettere fuori i cartelloni. Sarà per questo che i cinesi in massa si sono trasferiti vicino a Firenze. A Prato però, non confondiamo Firenze con Prato, per favore. Guai fuori dal comune di Firenze. Guai. E parlando di forestieri, a Firenze di forestieri ne passano tantissimi, gente che va, che viene, che si trasferisce, poi riparte, poi ritorna, poi non torna più, poi si è vista una volta e non si rivede, e si rivede chissà quando. E come si fa a spettacolare su persone di cui non si conosce nulla, su persone che oggi ci sono e domani magari non più? Non si spettacola, facile, oppure lo studente fuori sede chissà come mai si trova sempre poi in contatto con, non so, il calabrese si trova in contatto con i calabresi, oppure quello della provincia d'Arezzo, del paesino di Ponticino, mi è venuto in mente a proposito di VIP, perché voi a Ponticino vantate. Ah, beh. Vabbè, ne parliamo dopo. Insomma, se quello di Ponticino si trova casualmente all'università, uno di Ponticino, e quindi si creano dei piccoli paesi virtuali all'interno degli studenti fuori sede, e lì il pettegolezzo può circolare libero. Quindi funziona ancora la legge della tribù. Se anche si va in città dove in teoria le tribù sono abolite perché c'è una civitas che le sostituisce, in realtà poi si va a ricercare la piccola tribù, la propria tribù di appartenenza. Sì, è così. Chiedilo agli studenti universitari, funziona così. E a questo punto, visto che le tribù ancora esistono pur essendo in città, fiorentini e non fiorentini, su chi si spettacola di più, o su chi si spettacola e su chi non si spettacola? Allora, ritornando al discorso di prima, lo studente fuori sede che si trova a Firenze con uno del suo stesso paese ha mille argomenti, perché può parlare di ciò che ha lasciato, quindi tutta la realtà paesana, e la può integrare invece con le nuove conoscenze, i nuovi studenti, la nuova realtà universitaria, e si crea veramente un tessuto di pettegolezzo interessante. Quindi si parla del paese e si parla della città, sa un doppio pettegolezzo. Ma fantastico. E poi il fiorentino parla del fiorentino, rimane sotto l'ombra del campanile, perché insomma poi le persone che frequenta sono quelle. Sì, può frequentare uno straniero che poi però se ne va, quindi magari un pettegolezzo sullo straniero ha vita breve. Se vuoi un pettegolezzo che duri nel tempo, che dia soddisfazione, che dia sicurezza, ecco, devi rimanere in casa tua, devi giocare in casa. E a questo punto andiamo al pettegolezzo par excellence, che poi è una parolaccia inglese, che è il gossip, e in particolare di quelle persone, quegli influencer, quelle celebrity, per parlare creolo, che in città abitano più densamente e in più alto numero rispetto che naturalmente in provincia e in paese. Anche a Firenze ci sono dei personaggi che in qualche modo rappresentano il quartiere o la città e di cui un po' si sa tutto e si cerca di sapere tutto? Sì, dai, abbiamo anche noi le nostre celebrità e siamo fieri di averle, perché se mi dici dove è andata a fare la spesa un cantante, Piero Pelù te l'ho nominato prima, se mi dici dove è andata a fare la spesa Irene Grandi, ecco, vale molto di più, vale 10 volte la gita al supermercato di una vecchina qualsiasi. Pieraccioni è un altro fiorentino e fiero di esserlo, quindi se tu incontri Pieraccioni ti fai una foto subito insieme a lui, la metti su Facebook, e lì insomma anche solo la presenza di Pieraccioni, anche se non dici niente in proposito, insomma è già motivo di vanto. I calciatori che noi abbiamo, insomma siamo una città profondamente legata alla propria squadra del cuore, e allora anche incontrare un calciatore e sapere con chi va, qual è la sua donna, qual è la sua amante, cosa beve, dove va a ballare, è anche questo pettegolezzo con una P maiuscola. Ma ce l'avete anche voi, dai, le vostre celebrità. Abbiamo anche noi le nostre celebrità, anche se in numero minore, e però non sono di portata inferiore a quelle fiorentine. Per esempio, al di là delle star della politica, che quelle lasciamole fare, abbiamo le nostre, ma in particolare vicino al mio comune di residenza vive una grande star della musica italiana, forse una delle più grandi pop star che il nostro paese ha prodotto, e cioè Enzo Ghinazzi, Te Pupo. Te l'ho nominato prima, vedi che è così famoso e così legato al vostro territorio che perfino io che sono di Firenze me lo sono ricordato. Tra l'altro, diciamolo, Pupo scrisse negli anni 80 una canzone bellissima, insomma se la scrisse lui e la cantava, che era Firenze Santa Maria Novella. E che è una fotografia, o perlomeno era una fotografia, della Firenze degli anni 70 e 80 piuttosto rispondente al vero, quindi insomma sì. C'è poco da ridere. E poi non dimentichiamo che a Figline Valdarno, che alla fine non è lontano da qui e quello è già in provincia, come disse il professore, abita Sting, niente meno che Sting dei Police. Lo so, ma infatti... E infatti qui il parlare, si parla di loro. Oh, sai, Sting ha messo le olive. Oh, sai, Sting ha ammazzato i maiali. Oppure... infatti, quella è un semplice gesto fatto da una celebrità a valore di, non lo so, di un bigamo qualsiasi. O, E allora, noi torniamo alle nostre corna, ai nostri guai giudiziari e ai nostri cartelli dei morti. Invece lasciamo Laura a farsi le foto con Pieraccioni e con Irene Grandi. Grazie di essere stata con noi e di averci insegnato qualcosa in più. Per esempio, che se siamo a Firenze è inutile tentare di fare amicizia con i fiorentini, e alquanto improbabile ci tocca mettersi con quelli del paese. Purtroppo è così. Ciao carissimo, alla prossima. Laura, grazie a te, e a te. Salutiamo gli ascoltatori di Radio Big World e li invitiamo a seguirci alla prossima fiorentinata.